su M2O. Inizia il cammino di Gigi D'Agostino. Inizia il cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno, sono Gigi D'Agostino. Vi racconto il mio cammino. Ecco qua, va. Dai un po'. È il cammino del Gigi D'Agostino. Siamo l'amore. Settembre del 1981 acquistai il 45 giri di quel racconto per potermi riascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto. Ascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto. Volete mandare le vostre vostre dediche o volete far sentire il vostro pensiero, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Desidero raccontare musicalmente tutto quell'aria che desidero, quello tutto quell'aria che desidero, quello tutto quell'aria che desidero, quello tutto quell'aria che desidero, quell'aria che desidero, quello quell'aria che desidero, quello quell'aria che desidero, quello quello musicalmente. Quando dico altre storie intendo dire quello che voglio dire ma che non riesco a dire. Cioè, dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Roba de pack, pack, pack, pack, pack, bango, pack, pack, roba de casque, pack, pack, pack, pack, bango, pack, pack, pack, pack, roba de pack, pack, pack, pack, pack, pack, bango, pack, pack, pack, pack, pack, pack, pack, pack, roba de casque, roba de pack, pack. Il pro prossimo sabato e quindi il 12 maggio, sabato sera 12 maggio, ci sarà un pullman che partirà la mattina più o meno. Lo dicevo, che ci sarà appunto un pullman sabato prossimo 12 maggio, un bus, un pullman che partirà dalla Calabria circa e attraverserà tutta l'Italia. Destinazione raduno lento violento del nord Italia. La storia comincerà alle ore 22. Il DJ è Gigi D'Agostino, uno molto forte. Se volete informazioni precise sull'evento, potete visitare il mio sito gigidagostino.com. Entrate nel forum. E lì poi cercate lo spazio dedicato a questa cosa qui. No, così. Oppure, se volete, potete scrivere un SMS al 333-6467-662. L'ho detto troppo veloce, lo ripeto. 333-6467-662. Il pulmino di Gigi D'Agostino è gratuito e non si paga. Roba dei caschi, roba dei giovani del sud e giovani del nord uniti a tempo sotto lo stesso cielo. Il cammino di Gigi D'Agostino, musica che unisce. Grande momento, bello, bello, bello, bello. Chi era questo qui? Chi? Come si chiama? Roba de tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, roba de casche, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, roba de tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, roba de casche. Gigi D'Agostino, tranquillo, sei coperto. Istinto meraviglioso. We'll be right back. Questi sono i paesaggi meravigliosi che la musica riesce a disegnare intorno a noi. Ogni giorno, di pomeriggio, su M2O, dalle 2 alle 3, c'è un mondo a sé. Dalle 2 alle 3, c'è un mondo a sé. Pubblicità è la religione che salva le anime incerte, a patto che la ricerca sia sincera e costante. Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. M2O, il cammino di Gigi D'Agostino. Sole ma non c'è. volete scrivermi. 333 64 67 662. Mixata, va. Ti stiamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino. Ascoltatori e danzatori, chiamate i vostri genitori. Qui c'è musica che festa, suona il maestro e roba onesta. THD. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza di che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che vuol venire interrottamente. È arrivato il momento di viziarci e grazie ad Aprilia oggi è più semplice che mai. Infatti, acquistando uno Sport City 125, 200 o 250 entro il 30 giugno, Aprilia regala il bauletto New Concept da 32 litri e il parabrezza grande. Un'occasione da non perdere per provare l'emozione di uno scooter sportivo, maneggevole e grintoso, ed avere in regalo gli optional per viaggiare ancora più comodi. Aprilia Sport City, il lusso è di serie. Info aprilia.it. aprilia.it. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sarà libera danza, battito lento. libera danza, battito lento, forte sentimento, l'unione ci sarà. Libera danza, battito lento, forte sentimento, l'unione ci sarà. Libera danza, battito lento, forte sentimento, l'unione ci sarà. Sabato e domenica si raddoppia l'evento del raduno emotivo Lento Violento. Lento Violento. Sabato sera 12 maggio e domenica pomeriggio 13 maggio Gigi D'Agostino suona alla discoteca La Fattoria, Capriolo, Brescia. Discoteca La Fattoria. Lascia che musica sia. dal 27 aprile, in ogni dove, Lento, Violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Io non riesco a spiegarvi certe storie. È impossibile raccontare le sensazioni che mi assalgono. Riesco solo a immaginarle, a sognarle. Non riesco a tenermi tutto questo per me. Impossibile raccontare le sensazioni che mi assalgono. Riesco solo a suonarle. Riesco solo a ballarle. Su M2O si muove un cammino. Buongiorno a tutti, sono Gigi D'Agostino. Cammini paralleli, altri cieli, ci abbracciamo diversamente, i corpi stretti in un viaggio della mente. Cammino di Gigi D'Agostino. cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io vissuto sempre con te. Solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Ma son solo dei sentieri di un dottore pensatore.